pur con tutti i limiti che può avere ovviamente una sentenza, di fatto riconosce a livello costituzionale il fatto che la famiglia è di più di quello che gli ultraconservatori vorrebbero che fosse riconosciuto, cioè semplicemente una coppia eterosessuale sposata. La Corte ha detto chiaramente che, ad esempio, in questo caso la famiglia per l'Italia è anche una coppia di donne con un figlio. In questo caso coppie di donne costrette ad andare all'estero per accedere alle pratiche di fecondazione eterologa, perché in Italia resta e permane il divieto nella legge 40 di accesso a questa pratica per le coppie omosessuali, e appunto diciamo che questa sentenza getta le basi per poter anche mettere mano a quella legge, perché è chiarissimo che il fatto che in Italia resti a questo punto vietato l'accesso a quella pratica per le coppie omosessuali è semplicemente una discriminazione pura e semplice, visto che si è riconosciuto la legittimità costituzionale delle coppie omosessuali di donne di vedersi riconosciuto il proprio progetto di famiglia, e i bambini che hanno avuto di vedersi riconosciuti entrambi i genitori. Tu appunto citavi i conservatori, questa vicenda era balzata agli onori delle cronache qualche anno fa, anche perché il governo voleva vietare le trascrizioni anagrafiche. Sì, diciamo che questa sentenza della Corte finalmente ci allontana dai tribunali, nel senso che sancisce il fatto che non può più essere proibito la possibilità di accedere a questa pratica all'estero, ma soprattutto di vedersi riconosciuto il progetto di famiglia e di genitorialità che si vuole mettere in campo. Quindi un 1-0 per quanto ci riguarda nei confronti del governo su questo campo, anche perché veramente è insopportabile il modo in cui la politica italiana continua a non voler riconoscere i cambiamenti sociali e culturali che ormai fanno parte della carne viva di questo paese, e che tutte le persone, penso, che vivono in Italia toccano con mano. Soltanto la nostra politica e le nostre istituzioni continuano a girare la testa dall'altra parte, o addirittura a mostrarsi attivamente ostili a riconoscere quello che esiste ormai. E finalmente, grazie a questa sentenza, migliaia di bambini che già vivono nel nostro paese e sono figli di coppie di madri, e quelli che verranno in futuro, non dovranno più avventurarsi in un calvario giudiziario insopportabile per vedere riconosciuto un diritto che deve essere riconosciuto alla nascita, senza se e senza ma. Leggendo alcuni stralci appunto della sentenza della Corte Costituzionale, si pone attenzione sui diritti dei minori, sui diritti dei bambini e delle bambine. Quindi sostanzialmente il governo, nel cercare di colpire le madri e con magari provvedimenti omofobi, in realtà poi andavano a penalizzare anche i diritti dei figli. Assolutamente, perché questo accanimento, diciamo, del legislatore contro le coppie omosessuali con figli, in verità la prima vittima era proprio il minore, il bambino, la bambina, che non si vedeva riconosciuto il diritto che invece spetta a qualsiasi altro bambino di questo paese, di veder riconosciuto il fatto che i genitori debbano tutelarlo, debbano occuparsi del minore, perché l'hanno deciso di metterlo al mondo. È un diritto del minore sacrosanto veder riconosciuto il fatto che i genitori che l'hanno deciso di metterlo al mondo sono i genitori, e quindi devono occuparsi di lui, devono tutelarlo, devono proteggerlo. La prima vittima delle politiche omofobe e discriminatorie del nostro governo, delle nostre istituzioni, erano proprio questi bambini, che soprattutto si dividevano in due bambini italiani: bambini di serie A, con il riconoscimento immediato alla nascita perché figli di coppie eterosessuali, e bambini di serie B invece, che non godevano di questo privilegio, che a questo punto torna a essere un diritto, perché appunto, essendo esteso a tutti, smette di essere un privilegio come la prima e diventa un diritto di vedersi riconosciuto appunto le proprie tutele familiari che spettano a qualsiasi bambino nel nostro paese.